replicò Geppetto meravigliato. Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male, male, male, male, male. In questo mondo fin da bambini bisogna avvezzarsi a boccati e saper mangiare di tutto, perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti. Oh, voi direte bene, soggiunse Pinocchio, ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffrire, avete capito? E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera, fece l'atto di buttar via il torsolo. Ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli «Oh, non lo buttar via! Tutto in questo mondo può far comodo. Ma io il torsolo non lo mangio davvero, sai?» gridò il burattino rivoltandosi come una vipera. «Oh, chi lo sa? I casi sono tanti!» ripeté Geppetto senza riscaldarsi. Fatto sta che i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola, in compagnia delle bucce. Mangiate, o per meglio dire, divorate le tre pere, Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse, piagnucolando, ho dell'altra fame, io ho dell'altra fame, babbo. Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti. Oh, proprio nulla, nulla, nulla, nulla. Oh, ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera. Pazienza, disse Pinocchio. Se non c'è altro, mangerò la buccia. Una però, una sola buccia. E cominciò a masticare. Da principio storse un po' la bocca, ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce e dopo le bucce anche i torsoli, e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando ora sì che sto bene. Vedi dunque, osservò Geppetto, che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi sono tanti.